Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Mi butto? No, non mi butto. Lo lascio? No, non lo lascio. Chiedo o aspetto? Cambio? No, resto. Restate, voi restate. Decidete di stare con me perché oggi parliamo di scelte. Quando dovete prendere una decisione, che fate? Soprattutto poi, come state? 800 24 00 24. Confido sul fatto che siate restati con me. Stiamo insieme per sino a mezzogiorno, decidiamo un po' che tipo di scelte prendiamo, se scegliere per noi una cosa semplice, immediata o se ci costa, e soprattutto vorrei che oggi voi ci raccontaste la decisione che più rappresenta il vostro stile. Andiamo a sentire i profili. Prima decidi e poi rifletti, se non altro ti sei tolto un peso. Lascia che sia il destino a scegliere te, della serie o la va o la spacca. La notte porta consiglio, ma sono gli amici che ti aiutano a decidere. Il tuo motto è non decidere oggi quello che potresti decidere domani. Scegli dove ti porta la pancia, o meglio il cuore, come si dice, d'istinto. Prima rifletti, poi valuti i pro e i contro e poi decidi. Allora, tanti modi di affrontare le scelte. Io vi do subito i contatti per parlare con noi. Numero verde 800 24 00 24. Come sempre potete scriverci 349 238 6666, o ancora, mi raccomando, non dimenticate il nostro profilo Facebook. Se vi siete pentiti di una scelta o se questo vi succede regolarmente, se scegliete senza esitazioni e nella maggior parte dei casi fortunati voi ci azzeccate, se siete sempre lì per scegliere ma poi ci ripensate, chiamateci, perché oggi proprio ci eserciteremo in diretta. Non è detto che essere decisi sia sempre positivo, come non è detto che l'indecisione sia sempre negativa. C'è sempre il rovescio della medaglia. Noi cosa vogliamo fare? Partendo dai casi e dalle situazioni che voi ci metterete a disposizione, vogliamo darvi uno stimolo per cercare di scegliere bene, quindi scegliere quello che ci fa, che vi fa bene. Per darvi una motivazione in più a mettervi in gioco, sappiate che ci sono tre copie di un libro appena uscito, molto bello, che ho letto per voi, che attendono tre di voi. Il libro è La vita come tu la vuoi, realizza il tuo progetto più bello, te stesso, e l'autore, che è Claudio Belotti, è qua in studio con me. Ciao Claudio. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Allora, tu sei un coach. Sì. Che io voglio tradurre, perché sai che bisogna, cerchiamo di usare anche i termini italiani, che è una lingua ricchissima, quindi allenatore. Sì. Ed esperto di PNL, aiuti le persone a fare le scelte giuste, cioè quelle che aiutano a stare bene, a essere quello che vogliamo essere. Sembra un percorso molto difficile. A volte lo è. Ma in realtà tu ce lo spiegherai passo passo, perché è alla portata di tutti. Assolutamente. Il mio compito è aiutare le persone a prendere delle decisioni di cui non si pentiranno mai. Ed è detta così, sembra difficile e a volte lo è. Nel libro o anche nei corsi io dico sempre che insegniamo un po' tutto ai nostri figli, come vestirsi, come comportarsi, ma non gli insegniamo come decidere. Spesso le persone tendono a decidere in funzione della convenienza del momento o della conseguenza del momento. Faccio un esempio semplice. Molte persone fanno il lavoro che fanno perché gli è capitato. Poche persone si fermano e decidono cosa vogliono e pensano alle conseguenze a lungo termine della loro decisione. Poi arrivano ai famosi Anta, dove al compleanno degli Anta incominciano a dire: ma sto vivendo la vita che vorrei, ed è un po' tardi, sarebbe meglio farlo prima. Ovviamente non sempre si può fare tutto quello che si vuole. Poi hai toccato un tasto, quello del lavoro. Esatto, ci si può provare, se non altro. E magari prendere qualche decisione difficile che però risuona meglio con il nostro cuore, la nostra pancia, la nostra anima, e vivere una vita un po' più soddisfacente. Voi come scegliete? Di pancia o di testa? Siete istintivi? Avete tempo? Volete tempo per prendere delle decisioni? Decidete e poi vi pentite? Allora, affidiamoci al nostro coach. Ma vedi, io sinceramente non sono il tipo di uomo che mette piede in questo genere di locali o altri. Benissimo, Ruben. Allora, ecco, Dimmi, che tipo di uomo sei? Che tipo di uomo sono? Dimmi chi sei! Beh, ecco, il mio lavoro è valutare i rischi, perciò so che ho lo 0,013% delle possibilità che una macchina mi metta sotto o una su 46.000 di cadere in una gratta della metropolitana. Davvero? Quindi tento di affrontare quel rischio, evitando il pericolo, facendo un piano e conoscendo ogni mio passo. E io non credo che tu viva la tua vita proprio in questo modo. No, io agisco diversamente. Sì, va benissimo, vedi, ma io non farò mai dirty dancing e non mangio il cibo con le mani e mi piace un sacco, ma non credo che tra noi possa funzionare. E alla fine arriva Polly, l'avevate visto? Quindi decisi, indecisi, ci sono delle persone che sanno già, dicono non farò mai questo, vero Claudio? Invece poi la vita ti mette di fronte a delle scelte obbligate e ciascuno di noi magari è deciso in alcuni ambiti e indeciso in altri. Ci sono scelte più facili di altre, scelte che improvvisamente diventano difficili e voi chiamateci 800 24 00 24. Intanto cerchiamo un po' di contestualizzare, di non fare di ogni scelta un fascio, come si dice. Esatto, abbiamo parlato di testa e pancia. Ci sono persone che usano un po' troppo la testa, alcune che usano troppo la pancia. E io dico sempre che se il buon Dio ci ha dato due gambe è sempre meglio usarle entrambi. Quindi tra l'altro nella pancia ci sono centri nervosi che ci... la pancia pensa ormai. Sì, il famoso secondo cervello. Il cervello addominale. Impariamo ad ascoltarlo e impariamo anche a utilizzare la testa per filtrare. Sono due consiglieri, sono due strumenti. Invece di lasciare che uno di due prenda sopravvento, nel libro io dico, conosci persone logiche che sono felici? Ti sei mai innamorato logicamente? Ovviamente no, però se usiamo sempre solo la pancia, a volte ci pentiamo di quello che abbiamo fatto. Quindi usiamo la pancia e il cervello insieme e lasciamoli parlare tra di loro. E noi ascoltiamo. Assolutamente. Fidiamoci. Sempre. Intanto che voi ci raccontate le scelte, il vostro stile decisionale, poi possiamo correggerlo, possiamo prendere da voi naturalmente i consigli. Noi andiamo a salutare il dottor Nicola Canessa. Il dottor Canessa, intanto buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. È ricercatore di neuroscienze al San Raffaele di Milano. Dottore, ma a cosa pensiamo quando decidiamo? Sì, poi di fatto prendere decisioni è un'attività molto complessa che coinvolge tante sottocomponenti distinte, però sicuramente una componente di base è l'anticipazione mentale delle conseguenze delle nostre decisioni, per cui quando noi prendiamo una decisione ragioniamo anticipando mentalmente conseguenze positive, quelle che noi chiamiamo gratificazioni, un reward, ma anche conseguenze negative, quelle che chiamiamo delle punizioni. Chiaramente gratificazioni e punizioni sono poi associate a emozioni positive e emozioni negative, per cui come dicevate giustamente voi poco fa, aspetti freddi, cognitivi, come li chiamiamo noi, aspetti emotivi sono tra loro strettamente intrecciati. L'obiettivo del comportamento, diciamo l'obiettivo del nostro ragionare quando decidiamo, poi di fatto è chiaramente massimizzare le emozioni positive e minimizzare le emozioni negative, quindi c'è anche un apprendere dall'esperienza. Qualche volta ce la facciamo, vero dottore? Sì, sì, certo. Il nostro cervello in questo senso, se è sano, non è compromesso, funziona molto bene. Tra l'altro questo è qualcosa che, questa distinzione tra emozioni e cognizioni che però poi di fatto si intrecciano, è qualcosa che già teorie psicologiche ed economiche avevano previsto molti anni fa. E negli anni più recenti lo studio del cervello ha confermato queste teorie e ci sta anche mostrando quali sono le parti del cervello che entrano in gioco. E quali sono? E la cosa interessante è che questa distinzione fra anticipare gratificazioni e anticipare punizioni è associata a sistemi cerebrali distinti. Da un lato il sistema della gratificazione, del reward, il sistema dopaminergico, dall'altro il sistema della paura, quello centrato sull'amigdala. Quindi è proprio come se noi anticipassimo delle gratificazioni o dei dolori, quasi un dolore corporeo, questi studi recenti che anche noi stiamo effettuando ce lo dimostrano. Poi molto probabilmente il prodotto dell'attività di questi sistemi viene integrato, probabilmente questo lo fa la corteccia orbitofrontale, quella che sta sopra gli occhi, la parte più evoluta del cervello, che attribuisce a queste gratificazioni anticipate o queste paure anticipate un valore affettivo o soggettivo, e qui entra in gioco il peso delle differenze individuali, quello di cui parlavate voi poco fa. Dottore, ma lei mi ha parlato di questi due, di questi sistemi, sono sistemi ancestrali, no? Sì, sì, infatti. infatti, questo è un aspetto molto interessante, tant'è vero che gran parte di queste ricerche, prima che si cominciasse a studiare la decisione con le neuroimmagini sull'uomo, venivano effettuate su animali, scimmie, ma addirittura topolini. Quindi sono sistemi arcaici che noi ci portiamo dentro dall'evoluzione, che chiaramente nell'uomo sono più sviluppati, però di fatto sono davvero sistemi molto arcaici. Ma se una di queste componenti, una componente di questi sistemi di cui lei ci ha parlato, è iperattivata, funziona troppo, che cosa capita? Sì, qua ci sono tante cose interessanti da dire che si ricollegano anche al tema della vostra puntata. Un primo aspetto è che l'attività di questi sistemi dipende non solo dall'esperienza, cioè da quello che apprendiamo nel corso della nostra vita, ma risente anche di un'influenza genetica, per cui qui le differenze individuali addirittura sono su base genetica, per cui ci sono persone che sono geneticamente predisposte ad essere più sensibili alle gratificazioni oppure più sensibili alle paure, alle punizioni. E qui il tema del deciso indeciso entra decisamente in gioco, perché ci sono studi, per esempio, che ci mostrano che addirittura si può trovare un analogo dell'indecisione, per esempio nel topolino, che uscendo dalla tana vede qualcosa, potrebbe essere un predatore, allora rimane bloccato, non va avanti perché ha paura, ma non va nemmeno indietro perché potrebbe far rumore, quindi attirare l'attenzione del predatore. E questo è qualcosa che poi si riflette nella personalità delle persone. Ci sono persone che proprio sono geneticamente predisposte ad essere, per esempio, come diciamo noi, harm avoidant, cioè evitare il danno. E questo è qualcosa che infatti coinvolge l'amigdala. Assolutamente. L'iperattivazione si vede anche nei nostri comportamenti. Poi prima, insomma, in qualche modo, ascoltando la pancia, ascoltando la testa, il fiuto, l'istinto, noi prendiamo questa benedetta decisione. Però lei lo sa, dottore, lo sappiamo tutti, che come non tutte le ciambelle escono col buco, non tutte le decisioni sono felici. Un classico è cosa mi è venuto in mente di fare, non l'avessi mai detto, non l'avessi mai fatto. Ecco, il rimpianto. Ah, perché sono qui? Non lo so, solo... Sa, è che non credevo che le cose sarebbero andate così. Ero convinta che avrei avuto un bel lavoro, un ragazzo favoloso, una vita meravigliosa. E che fine hanno fatto? Spariti. Cioè, stava andando tutto per il verso giusto e io l'ho rovinato. Come? Scelte sbagliate. Le persone hanno sempre qualche rimpianto. Io a tonnellate. Tonnellate di rimpianti oppure piccoli rimpianti. Dottore, ma come la mettiamo? Dove lo mettiamo? Lei con il suo gruppo di ricerca si è occupato anche di capire che cosa succede quando tocchiamo con mano, sentiamo nel cuore che abbiamo preso la decisione sbagliata. Sì, esattamente, come dicevamo prima, noi impariamo dall'esperienza perché prendiamo decisioni, proviamo emozioni in conseguenza degli esiti delle nostre scelte, a volte positive, a volte negative. Tra le emozioni negative il rimpianto è particolarmente negativo e molto doloroso, perché oltre alla perdita in questo caso c'è anche un senso di responsabilità. Quindi sono queste due componenti che fanno rimpianto, il classico se avessi preso quell'altra decisione. E su questo tema ci sono molti studi interessanti che mostrano quali parti del cervello entrano in gioco. Ci sono degli studi di altri ricercatori italiani che hanno inizialmente studiato il rimpianto e ci mostrano che, guarda caso, è ancora la corteccia orbitofrontale, quella che sta sopra gli occhi, che integra gli aspetti cognitivi, il ragionamento, con gli aspetti emotivi, cioè l'emozione negativa scatenata dal rimpianto, che poi è quella che ci spinge a modificare, ad adattare il nostro comportamento all'esperienza passata. E noi in particolare abbiamo studiato questo meccanismo nell'ambito sociale, quindi abbiamo verificato che noi non solo impariamo dalle nostre esperienze di rimpianto e quindi adattiamo il comportamento, ma possiamo imparare anche dalle esperienze degli altri. Quindi speriamo, dottor Canessa. Io intanto la ringrazio per essere stata con noi. Grazie. Le auguro una buonissima giornata e anche delle scelte felici. Io intanto vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, oltre a come scelgono, noi abbiamo parlato di rimpianto. Claudio, quando uno inizia a me capita un sacco, se fossi mi fossi alzato un po' prima, avessi fatto questo, io poi cerco di dico vabbè, quel che fatto è fatto e mi ributto. Giusto. È giusto, giusto. Giusto. Beh, però voi, allora, ecco, vorrei chiedere anche ai nostri ascoltatori che sono in attesa, e io vorrei salutarli, Paola dalla provincia di Milano, vediamo che cosa ci racconta, se ci aiuta o se ha bisogno di aiuto. Ricordo che ci sono 3 copie che Claudio Belotti ha portato qui e che naturalmente dedicherà, sceglierà 3 di voi a cui farle ricevere a casa. Intanto Paola, buongiorno a lei. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ma io, a proposito di scelte, devo riconoscere che sono abbastanza veloce nelle scelte semplici. Comprare un paio di scarpe, entro nel negozio, scelgo, dico che cosa mi serve più o meno. Sì. E devo dire, di solito sono abbastanza rapida nel prendere la decisione. Sì. E quasi mai mi sono pentita di quel che ho fatto. Mm. Viceversa, se devo prendere una decisione importante, allora lì le cose cambiano. Cioè cerco di far entrare la testa, cioè di ragionare, di vedere, di valutare, di prevedere le conseguenze, tutte quelle cose di cui avete parlato voi. Ecco, ma lei Paola, perché penso che anche al nostro coach questo sia per lui sia interessante. Cioè noi diciamo, sono una persona che sa scegliere bene per sé oppure sono una persona che una su due la sbaglio? Paola. Ma io tutto sommato per me... Che voto si dà? Riesco a scegliere bene per me. Quando devo scegliere per i figli, per... Brava. Ecco, lì che cambiano. Allora, cose. Sentiamo il nostro allenatore. Vedi Claudio che poi se noi dovessimo darci un voto, siamo promossi in alcune scelte. Pensiamo in alcune materie e ci sentiamo inadeguati in altre. Ovviamente, buongiorno Paola. Ovviamente ci sono scelte più difficili e come ci ha ricordato il professor Canessa, ci sono, è un meccanismo complicato e complesso. Sicuramente quello che Paola fa è usare due metodi diversi. Sappiamo che quello delle scarpe, per usare l'esempio che ha usato Paola, funziona molto bene perché si preoccupa forse un po' di meno. Se ci rifacciamo a quello che ha detto il professore, probabilmente usa più la parte emotiva, un po' meno la parte cognitiva. Forse si dovrebbe, con i giusti limiti ovviamente, utilizzare lo stesso metodo. A volte in programmazione neurolinguistica diciamo che si entra in un loop, cioè continuo a girare, e il buon senso e le statistiche e la ricerca ci dicono che è meglio prendere la decisione sbagliata, ma prenderla, piuttosto che non decidere. Perché se prendiamo la decisione sbagliata, ce ne accorgiamo, possiamo recuperare, possiamo avere un rimpianto, ma almeno impariamo. Se non prendiamo la decisione, rimandiamo e non sbagliamo, ma non portiamo nemmeno avanti il processo. Quindi a volte è meglio fare le cose e imparare. Ecco, se volete imparare, io devo imparare da te Claudio, assolutamente. Il tuo libro devo dire che mi ha aiutato perché è ricco di... consigli, come piacciono a me. Io sì. Voglio immedesimarmi, capire, riconoscermi in quella situazione, avere qualcuno che mi dice potresti fare così, mi attiva, un po' come facciamo noi ogni giorno con il nostro Daily Lab, il nostro laboratorio del benessere, a cui collaborerà anche Claudio Belotti, e quindi troverete anche i consigli del coach insieme a quelli del nutrizionista, dell'oculista, del nostro personal trainer, insomma tutti esperti che si mettono a nostra disposizione per aiutarci una cosa, per inviarci un messaggio molto semplice. La nostra salute e il nostro benessere spesso dipende da noi. Dobbiamo diventare protagonisti attivi della nostra salute e del nostro benessere. Essere e benessere. A un certo punto devi prendere una decisione. I confini non tengono fuori gli altri. Servono solo a soffocarti. La vita è un problema. E noi siamo fatti così. D'accordo, ho deciso. George e Izzy, avete trovato casa. Sì! Riesco a crederci! Grazie. Sì! Non riesco a crederci neanche io. La colpa è dei bambini. Ti inteneriscono. Quindi puoi sprecare la tua vita a tracciare confini. Oggi insieme a Claudio Belotti parliamo di scelte. Tre di voi potranno ricevere a casa il suo libro La vita come tu la vuoi, quindi scelte che ci fanno bene, Claudio. Assolutamente. Allora noi vorremmo attivare gli ascoltatori, tre di questi li sceglierai, tre dei loro interventi li sceglierai tu, a raccontarci che cosa? Che cosa può aiutare anche dall'esperienza degli altri possiamo imparare noi? Decisioni magari difficili? Sì, in programmazione neurolinguistica ci piace imparare da chi ha fatto bene. Sì. Quindi magari qualcuno che ha preso una decisione difficile, quelle che ti tengono un po' svegli la notte, o magari tante notti, sì, che però si è rivelata una buona decisione perché alla fine ci ha portato a vivere una vita più soddisfacente. Intanto un messaggio di Giorgio che ci chiama da che ci scrive da Gorizia e ci chiede: perché svegliandomi nella notte sento sbagliate le decisioni da prendere o prese, ma durante la giornata le sento positive? E Giorgio si chiederà perché, dato che si dice la notte porta consigli, assolutamente, no? Se di notte ti viene quella vocina e ti dice oh, hai sbagliato, uno si alza e invece poi si rasserena, come mai? Allora, potrebbe essere, dovremmo avere più informazioni, potrebbe essere che di giorno la sua parte logica gli fa dire che tutto è a posto, la notte quando la parte logica si addormenta un po', è un po' più l'istinto, la pancia, l'inconscio, il cuore, l'anima, chiamiamola come vogliamo, si fa sentire perché le altre parti sono un po' dormienti. Ecco perché è sempre una buona abitudine quella di dormire sopra o, se non dormirci sopra, prendere un momento di pausa e lasciare che decanti un po' tutte le nostre parti, quindi cognitiva, emotiva, possano interagire per farci decidere bene. Allora, qual è stata la decisione difficile che avete preso, anche con un grande impegno, mettendovi proprio in gioco, e alla fine vi siete detti sono proprio soddisfatto? Laura, buongiorno da Roma. Io sono una persona che le decisioni le prende di pancia, sì, proprio per scelta. Mi lascio guidare dal mio istinto, non lo so, dalla gioia di vivere probabilmente. Così come quando ho deciso di non... Io sono una mamma da primipara attempata, 37 anni, ho deciso di avere un figlio e l'ho preso di pancia come decisione. Ho deciso di non fare l'amniocentesi perché desideravo talmente un figlio che qualsiasi cosa sarebbe stata una parte di me. E adesso c'ho una meravigliosa ragazza di 22 anni che mi dà un sacco di soddisfazioni. Grazie Laura. Allora si sceglie di pancia, vediamo come sceglie Mara da Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Pancia, testa, tutte e due, che fa? No, io scelgo di pancia e automaticamente metto in funzione la testa. Perché naturalmente la scelta di solamente di una o della testa o della pancia non mi darebbe soddisfazione, perché al momento in cui si deve fare una scelta è chiaro che sotto c'è un bisogno, una necessità di qualcosa. Senta Mara, ma vuole far contento Claudio Bellotti raccontando una decisione anche un po' complicata che ha preso e di cui si sentiva orgogliosa? Ma veramente non ho diciamo un episodio particolare da raccontare o diciamo che posso raccontare, ecco. Però posso dire questo, che facendo le mie scelte di pancia e naturalmente guidando sempre con la testa, subito dopo, a breve, ho spesso, magari posso avere un ripensamento, un pentimento, però a distanza di tempo, vedo che poi ho fatto bene, ho agito. Brava Mara, ha fatto bene anche a chiamare l'800240024 come Maurizio che ci chiama da Cremona. Buongiorno. Buongiorno. Maurizio. Io, sì. Eccoci. Io volevo parlare un po' di quelle che possono essere, anche se a fine amorevoli, però i condizionamenti che a volte la famiglia può fare sui giovani, quando magari tendono a evitare che quelle che possono essere delle ambizioni possano ferire il loro figlio, come è successo a me, che da bambino, da ragazzo, anzi le mie ambizioni si scontravano con quelli che erano i consigli dei miei genitori, ma il posto fisso, il concorso, e invece io ho sempre pensato però pelle. Quindi diciamo, Maurizio ci sì. dice che c'è i condizionamenti esterni, lo sappiamo tutti, però è vero, ci frenano talvolta, ci fanno fare delle scelte che ci costringono a evitare, non perseguire il progetto che avevamo su di noi. Sì, il libro che io ho scritto si apre con una citazione di Bruce Lee, che mi è piaciuta molto, dove lui dice che le persone passano la maggior parte della loro vita a realizzare un'idea che hanno di se stessi invece di realizzare quello che sono veramente se stessi. E purtroppo i nostri genitori, per fare un esempio, i nostri insegnanti, quasi sempre con buone intenzioni di farci del bene, di proteggerci, cercano di dirci cosa è giusto per noi. Immagino lo farò anch'io senza volerlo. E allora arriva il momento in cui dobbiamo fermarci, decidere veramente noi chi siamo e quindi prendere decisioni che rispettano chi siamo, perché quelle sono le decisioni di cui non ci pentiremo mai, quelle che rispettano quello che noi siamo dentro. E io dico spesso che molte persone passano più tempo a pianificare le proprie vacanze che a pianificare la propria vita. E questo non è bene. Ci scrive Viviana da Roma, a proposito di condizionamenti, di amicizie, di scelte, un messaggio: scelto di tagliare i ponti con persone negative, sto bene, non ho rimpianti. È spesso difficile, perché magari le persone negative sono persone, amici di vecchia data o famiglia, però in sociologia il concetto di gruppo dei pari ormai è conosciuto a tutti. Le persone che noi frequentiamo ci frequentano, scusate, che noi frequentiamo ci influenzano, ci condizionano. Ed è importante essere circondati da stimoli positivi. Positivi non vuol dire negare l'evidenza. Se c'è un problema, lo risolviamo. La crisi c'è, non neghiamola. Ma affrontiamola, usiamola come opportunità per crescere. Anche una decisione sbagliata è un'opportunità per crescere, perché io posso imparare. Ecco perché dobbiamo lasciare i nostri figli anche prendere qualche decisione sbagliata, così impareranno. Sì, perché è vero che gli altri ci condizionano e noi siamo altri, gli altri per qualcuno. Decidere per gli altri, decidere per le persone che più ci stanno a cuore, i nostri figli, tante volte noi non ci sentiamo all'altezza e tante volte non decidiamo per la paura di sbagliare. I nostri genitori, i genitori delle passate generazioni erano: si fa così perché lo dico io. Noi tante volte ci mettiamo un po' in dubbio, a volte non decidiamo, a volte ci uniformiamo agli altri. In linea con noi è tornata a trovarci Tata Lucia. Ciao Tata Lucia. Buongiorno. Tra l'altro fresco di stampa per Rizzoli: spegnete la TV. Certo. Ecco, quindi è questa già una decisione. Però tu, come mi suggeriva Laura Vanossi, dovevi mettere: accendete la radio, certo, e seguite Radio 24, o meglio Essere Benessere, però possiamo dirlo. Senti, va Tata, sì. Ma tu come fai a dare così tanta sicurezza, a insegnare ai genitori a prendere le decisioni giuste? Insomma, sembri un tipo tosto, io poi ti conosco bene, insomma, sei un tipo deciso tu. Sì, io sono molto decisa, anche se questo... diciamo è mediato a volte da una certa impulsività che mi permette di raggiungere immediatamente determinati obiettivi o di essere decisa in certe decisioni. È un gioco di parole, ma è così. Mentre per gli obiettivi a lungo termine lì faccio un po' più fatica, lì avrei bisogno proprio di un allenamento col coach. Ecco, infatti, perché qua si viene, si parla, ci si racconta e ci si fa aiutare, ma noi a nostra volta possiamo aiutare qualcuno. Allora, Claudio, hai la Tata Lucia, Che responsabilità. Hai una responsabilità, perché adesso intanto pensaci, Tata Lucia rimane con noi, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e ritorniamo subito insieme. Continuate a chiamarci, tra di voi due, una persona è già stata scelta da Claudio Belotti per ricevere a casa il suo libro La vita come tu la vuoi. Siamo lì per scegliere, per prendere una decisione sugli altri. Essere e benessere. A me piace molto, ma anche a Paolo Corleoni, che è in regia la parte tecnica. Vedo che ci stavamo un po' intrattenendo, ma abbiamo Tata Lucia che ci aspetta, una grande certo. responsabilità. Diamo al nostro coach, lo mettiamo alla prova. Chiederò a Tata anche di aiutarmi a essere un miglior padre in cambio. Allora fate uno scambio. Allora, c'è un vecchio proverbio che dice che un elefante si può mangiare a condizione che lo mettiamo piccoli bocconi. Certo. Quando è possibile, le grandi decisioni a lungo termine possiamo spezzettarle in piccole decisioni. Bravissimo. Oppure, come diciamo anche in PNL, a volte basta dare una direzione alla nostra mente, alla nostra pancia. Magari non decidiamo l'obiettivo finale, la città dove vogliamo arrivare, ma decidiamo di andare verso nord. E poi nel viaggio raccogliamo informazioni e quindi possiamo decidere. A volte si fa fatica a decidere perché non abbiamo abbastanza informazioni ancora. Ecco, vedi che bravo questo coach. Vedi? Bravissimo, tata, bravissimo. Allora Tata, io spero di averti qua presto anche per parlare, certo, del tema che affronti in questo bellissimo nuovissimo libro Spegnete la TV. Certo. Ecco, io vorrei che tu poi ne facessi un altro Ascoltate Essere Benessere. Non so se me lo fai questo favore, ma insomma aiuta. Vedremo. E prestissimo anche insieme. Intanto volevo mandarti saluti di Antonia che scrive: ma Tata Lucia ha figli, non c'è mestiere al mondo più difficoltoso di quello del genitore. Certo, ed evidentemente io ho 23 figli e 4 tra nipoti. E ecco, quindi ha fatto una bella palestra, si è allenata. Certo, un abbraccio. Grazie molto a voi, auguri. Grazie. Roberto, buongiorno da Cagliari. Buongiorno. Buongiorno Roberto. Buongiorno Nicoletta. Eccoci. Sì, io ho preso tante decisioni finora, poi alcune è andata male, anzi questo ultimo periodo malissimo, e ora mi ritrovo ad avere un lavoro che praticamente mi sta togliendo tutte le energie e non riesco a fare decisioni, cioè sono fermo, non riesco proprio a decidere. Un momento di stallo. Paolo, ma, Roberto. Sì, che mi sta facendo veramente male. Sì, perché uno vorrebbe. Ho paura di andare avanti. Ho paura di stare lì. Uno si sente. Non riesce a stare nel qui e ora. Claudio. Buongiorno Roberto. Vuole un intervento spot ma efficacissimo. Un paio di consigli veloci. Avrai sicuramente degli amici, dei veri amici. Per me, i veri amici sono quelli che ti vogliono talmente bene da dirti la verità. Non quello che tu vuoi sentirti dire, ma quello che hai bisogno di sentirti dire, e ti conoscono e vogliono il tuo bene, non il loro. Parla con loro, ragiona con loro, fatti dare un supporto, un consiglio, apriti con loro. A volte abbiamo bisogno di parlare con qualcuno solo per riordinare le nostre idee. Se noi continuiamo a parlare con noi stessi dentro la nostra testa, rimbalziamo all'infinito. Mentre per parlare con gli altri devi riordinare le idee per far capire loro, e magari le riordini anche con te stesso. E poi incomincia anche qui, dalle piccole cose, piccole decisioni. Cosa puoi fare per migliorare un po' le tue giornate al lavoro? Anche piccoli gesti, quali potrebbero essere aprire la finestra, visto che sei a Cagliari, annusare l'odore del mare, che sicuramente tu non senti, ma noi di Milano lo sentiremmo. Le piccole cose che ti ridanno un po' di entusiasmo per poi avere la forza di prendere le grosse decisioni che devi prendere. E abbiamo anche con noi Elda che ci chiama da Cagliari. Elda, buongiorno. Buongiorno, devo dire che il mio intervento si aggancia molto a quello che ha appena detto il vostro consulente, Robert, consulente. Claudio Belotti. Perfetto, perché il mio intervento si chiama Scelgo di scegliere, nel senso che io tutti i giorni sono abituata a scegliere come vivere la mia giornata, anche facendo il mio lavoro. Io sono medico, quindi ho la mia professione, però ho fatto scelte professionali diverse nella mia vita, quindi il mio lavoro è cambiato, pur rimanendo, continuando a svolgere la mia professione. Non mi sono mai pentita delle scelte, perché io ogni giorno, e così insegno ai miei figli, scelgo di scegliere di vivere la mia professione, la mia giornata, di migliorarla ogni giorno o di cambiarla in modo da renderla per me accettabile e di soddisfazione. Questa ho trovato che è una palestra, perché pian piano orientiamo con piccole scelte la nostra vita, e di fatto ci troviamo già nella direzione giusta quando dovremo fare una scelta più importante e la riconosceremo più facilmente. E questo oltretutto è una palestra anche per non avere ansia in qualunque scelta dobbiamo fare, cominciando dalle piccole e cominciando a scegliere tutti i giorni. Ecco, questa è la mia esperienza. Elda, ma è assolutamente vero quello che lei proprio ci sta allenando con i suoi consigli, a piccoli passi. Quindi, e quando le scelte sono tanto difficili e ci fanno paura, le smontiamo a pezzo e cerchiamo di affrontarle. Intanto Claudio ha scelto i tre ascoltatori. Le abbiamo poi Paola, perché ha bisogno di usare l'emotività, giusto, mi hai detto. Maurizio per i condizionamenti esterni, sì. E Roberto, che mi facevi cenno, ho capito bene, capito il nostro benissimo ascoltatore che ci ha chiamato da Cagliari in un momento di stallo. Intanto io ringrazio Claudio Belotti, ringrazio voi che ci avete seguito e ascoltato. Avete come si dice scelto di stare con noi. Vi ricordo l'appuntamento con il Sole 24 Ore e per l'edizione, la collana Racconti d'autore. Questa domenica due racconti di Gogol, Prospettiva Nevinsky e Il cappotto di Kafka. Scegliete di andare in edicola a 50 centesimi in più, oltre il quotidiano vi portate a casa un libro magnifico. Buonissima giornata. Essere e benessere.